Fare politica. Ognuno di noi fa politica a modo suo. Ognuno cerca di influenzarsi a vicenda in un modo o nell'altro. Ed è giusto e valido finché parliamo con la verità. Usiamo tutte le risorse che abbiamo a portata di mano, tutte le capacità, tutte le competenze, tutta la preparazione che abbiamo. Ecco perché dobbiamo migliorare giorno dopo giorno. Giorno dopo giorno. Dobbiamo mettere in pratica tutte le nostre risorse il più possibile. La preparazione, l'esperienza, la maturità. Ogni risorsa che hai conto. Ogni risorsa conto. E non dobbiamo dimenticare, ognuno fa politica a modo suo, con la tua preparazione, con la tua conoscenza, con la tua abilità, con la verità, con la tua verità davanti, sempre davanti. Non fare il cattivo, mai. Con concorrenza leale, prima o poi la vostra politica prenderà forma. Prima o poi la vostra politica atterrà buoni risultati. Lullo Cesare, il cavaliere.